nel mondo, 189esima trasmissione dedicata agli emigrati. Questi canti, eseguiti dal coro di Gradisca di Sonzo, diretto dal maestro Narcisio Minussi, vi riportino, cari amici in ascolto, con il pensiero, alla vostra terra piena di poesia e di semplicità, e vi facciano sognare per un po' i verdi colli, le vallate carniche, i prati fioriti, il cielo e il generoso vino del nostro Friuli. Ascoltate, pertanto, Se al tornasse di Giovanni Pian, Frut Maman di Giulio Chialchia, Splendor di Stelis, rapsodia friulana elaborata da Minussi, C'è mattine di Arturo Zardini elaborata da Minussi. Oh, Cura di Ermete Pellizzari.